already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. And the world as the next Secretary of State. We're in a new era. The world is yearning for strong but consultative American leadership in foreign policy. E siamo, vi stiamo trasmettendo delle voci che arrivano in diretta dal Campidoglio, da Washington, dalla capitale degli Stati Uniti d'America, dove è cominciata da circa mezz'ora, senza che per ora abbia ancora preso la parola, aperto bocca, l'udienza presso la Commissione Esteri del Senato per ratificare l'incarico a Hillary Clinton come nuovo segretario di Stato. La riunione che vi posso garantire almeno fin qui ha tutta l'aria di essere un minuetto, insomma una specie di festeggiamento, non c'è quella atmosfera processuale che si poteva temere attorno a Hillary Clinton, magari con rivendicazioni, richieste di chiarimento, le famose questioni dei bilanci della fondazione di suo marito Bill, magari qualche difetto di compatibilità, no? Magari qualche finanziamento arrivato dagli esteri, visto che proprio di ciò si occupa il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America. Per ora i discorsi pronunciati dal presidente della commissione, che è John Kerry, vi ricordate, che concorse ma perse la corsa elettorale del 2004, e poi da Chris Dodd, che è stato un candidato democratico di una qualche rilevanza durante le primarie di quest'anno. Ora sta parlando, proviamo a sentirlo in sottofondo, Charles Schumer, che è il senatore dello Stato di New York, quindi un collega, amico, collaboratore di Hillary Clinton. Per ora uno per l'altro stanno sottolineando il valore, l'importanza, il peso della figura di Hillary Clinton in questa posizione chiave, l'esperienza che si porta dietro e probabilmente anche lo stile che saprà amministrare in quel team of rivals, no? In quella squadra di rivali, come titola un famoso libro dedicato in questo caso a Abraham Lincoln, che decise di chiamare i suoi migliori rivali a fare squadra con lui. Lo stesso si prova a supporre stia facendo Barack Obama, chiamando la sua più fiera avversaria, ovvero Hillary, a fungere da suo principale collaboratore come segretario di Stato. E insomma, tutto per ora sembra andare, come si dice, sul velluto. Happiness depend on her work. Hillary, you've dedicated your career to improving the lives of the least fortunate. E insomma, Hillary, gli ha detto Schumer, tu hai dedicato la tua carriera a migliorare la qualità della vita delle persone meno fortunate. Beh, questa è una la chiamerei più una incoronazione, non so, un'investitura, che una commissione. Hillary ha un'aria al tempo stesso spavalda e solenne, ecco, direi così, vestita con un tailleur color oliva, che non le avevamo mai visto addosso, ha una grande collana, insomma, sorride con l'aria della fiera guerriera che alla fine di una lunghissima rincorsa, che non l'ha portata dove tutti pensavano potesse portarla, ovvero alla Casa Bianca, ma l'ha portata qualche gradino più sotto, ma comunque torna a entrare dal portone principale nel grande gioco della politica internazionale. E come ha già fatto sapere, adesso ci sono addirittura dei baci, ci sono dei baci tra il senatore Schumer, si è alzato e è andato a baciare Chelsea Clinton alle sue spalle. John Kerry gli ha detto, ecco, sta cominciando introduction and even more for his support and our partnership over so many years. He's been a valued and trusted colleague, a friend and a tribute. Beh, si spreca in ringraziamenti, visto l'omaggio che le è stato rivolto in questa sede, altro che commissione. As you take on this new role, traveled quite a distance from that day back in 1971 when you testified here as a young Vietnam veteran. You have never faltered in your care and concern for our nation. E adesso sta restituendo i complimenti, ha detto quanto è stato bravo John Kerry quando fece la sua corsa elettorale a poi ripensare, no, a tirar fuori i suoi trascorsi di pacifista. Insomma, c'è uno scambio di complimenti. Forse è più interessante citare quanto Hillary sta facendo sapere al mondo riguardo a quella che vuole essere la sua strategia da grande comunicatrice della Casa Bianca nei confronti del resto del mondo. Hillary ha detto chiaro e tondo che vuole riportare l'America al centro degli equilibri internazionali con un ruolo eminentemente, chiaramente, evidentemente positivo. Lo smart power, la potenza intelligente, smart power, ricordatevi queste parole perché ho la netta sensazione che saranno una delle etichette di cui si farà uso e anche abuso assai nei prossimi tempi. Lo smart power è stato evocato da Hillary Clinton come la chiave, no? Lo stile di comportamento della sua elezione a segretario. Riaffermerà la convinzione condivisa del presidente eletto Barack Obama che l'amministrazione deve essere più intelligente per essere più forte. La senatrice Clinton crede in una potenza intelligente che utilizzi tutti gli strumenti della politica estera a nostra disposizione. È questo che fonti vicine a lei dicono per presentarci la discesa in campo di Hillary Clinton. Ascoltiamola in diretta da Washington ancora un momento. The House Foreign Affairs Committee, the Appropriations Committees, and with Congress as a whole. And I look forward to working with my good friend, Vice President-elect Biden, who's been a valued colleague and a very valued chairman of this committee. Ha detto una cosa importante, ha detto una delle collaborazioni a cui tengo di più, uno dei personaggi meno nominati, chiacchierati in queste settimane, è invece un preziosissimo alleato per me, ha detto Hillary, cioè per lei, in questo suo imminente lavoro sul fronte internazionale. Joe Biden, vicepresidente degli Stati Uniti d'America a partire da martedì prossimo, un uomo che ha una straordinaria esperienza, soprattutto nei punti di crisi, nei fronti di crisi internazionali. Today, our nation and our world face great perils, from ongoing wars in Iraq and Afghanistan to the continuing threats posed by terrorist extremists. Adesso ha cominciato a fare quello che sembra a tutti gli effetti un discorso, potrebbe essere un discorso televisivo. Ha appena detto: in questo periodo, in questi tempi, il mondo si confronta con grandi pericoli. I fronti principali più evidenti sono naturalmente Iraq e Afghanistan. New conflict in Gaza. Terrorist attacks in Mumbai, mass killings and rapes in the Congo. Congo, Mumbai e Gaza sono state con accezioni diverse, terroristi, guerra e stermini rispettivamente sono le parole che ha attribuito a questi tre altri punti di crisi tra le priorità quindi dei problemi che Hillary Clinton si accinge ad affrontare. Sembra una Hillary già estremamente consapevole, preparatissima. Ieri ve l'avevamo detto, i suoi più vicini collaboratori hanno detto guardate che arriverà alla riunione della commissione preparatissima come si va a un esame a cui si tiene moltissimo, perché questo è nel carattere di Hillary, non mettere tempo in mezzo, far vedere che comunque nessuna scelta può essere migliore di lei. Lasciamola alla presentazione, poi ci torneremo sicuramente sopra, magari con un'analisi anche più approfondita. Comunque la cosa interessante è aver misurato l'atmosfera della situazione. Non è un momento di conflitto interno per il nascente governo americano e anche per le opposizioni, non c'è voglia di sparigliare le carte che ormai sono state distribuite, questa è la sensazione, c'è voglia di essere efficienti, operativi, esecutivi immediatamente, quindi la scelta di Hillary Clinton al segretariato di Stato è una scelta interessante, importante, guerreggiare internamente, partiticamente su una opzione di questo genere sarebbe ritenuto, credo, da una maggioranza schiacciante degli americani come un vero e proprio errore strategico. Nel frattempo arriva l'inaugurazione, ormai mancano pochissimi giorni, 6 giorni, e tutto ciò poi diventerà realtà. C'è naturalmente anche in circolo molta, molta retorica. Pensate che ci sono dei giornalisti che addirittura si sono scomodati e sono arrivati fino a Memphis. Memphis, the Lorraine Motel. In the parking lot below room 306, two vintage Cadillacs. History's detail preserved. Giornalisti CNN sono andati fino a Memphis, anzi fino al parcheggio del Lorraine Motel, il motel dove esattamente 40 anni fa venne assassinato Martin Luther King, per porre al paese, agli ascoltatori, alla platea così fremente, ormai così impaziente, una domanda retorica, che più retorica non potrebbe essere, ovvero: Martin Luther King, che cosa potrebbe dire Martin Luther King oggi della elezione di Barack Obama? Insomma, difficile dubitare di ciò che potrebbe pensare il grande leader afroamericano. Ci sono anche molti discorsi che in queste ore circondano l'elezione di Obama, su capire quali saranno le prime mosse, le mosse immediate, quelle poi dall'alto coefficiente rappresentativo che Obama farà non appena prenderà possesso dello studio ovale. Possibly as early as a week from tomorrow, President Barack Obama will issue an executive order to close the U.S. detention center at Guantanamo Bay, Cuba. That news still unconfirmed. E oggi i giornali americani si dedicano con grande attenzione all'ipotesi che un ordine esecutivo per la chiusura della prigione per presunti terroristi, questa è la definizione, di Guantanamo, potrebbe essere firmato da Barack Obama nella prima settimana di lavoro alla Casa Bianca, se non addirittura il primo giorno, no? Un gesto ad alto tasso di rappresentatività. Ne parla lo staff, ne parla in fonte, diverse fonti anonime, e ne vorremmo parlare anche noi, per cui già oggi faremo qualche accenno alla faccenda, la discussione, ma vorremmo tornarci nei prossimi giorni, magari proprio vicini, quasi in coincidenza con l'inaugurazione, magari con un dibattito allargato e più voci, perché ci sembra interessante poi vedere anche il discorso Guantanamo da diverse angolazioni e capire anche il peso nazionale e internazionale, simbolico e reale, di un intervento di questo genere. Altre cose succedono, dobbiamo sbrigarci. I'm truly humbled and honored to learn that later this week I will officially be sworn into the... Eccolo qua, questa è la voce, ormai secondo me avete imparato a riconoscerla, del vecchio Roland Burris, che investito, no, dal molto, molto scacciato, molto poco amato governatore dell'Illinois Rod Blagojevich come successore di Obama nel seggio lasciato libero dal nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, alla fine ce l'ha fatta. È stato, dopo una serie di pantomime, anche di brutte figure consumate suo malgrado, insomma, nel tentativo di appropriarsi di quel seggio che gli è stato assegnato dal più impopolare degli americani, sicuramente almeno dei politici americani, Roland Burris alla fine ha accettato il gradimento che gli è stato offerto dai senatori democratici. Insomma, si sta andando verso la sua vittoria nella battaglia per conquistare questo seggio al Senato. È un dato anche questo che sottolinea come la volontà generale sia quella di rassicurare, rasserenare. Tante informazioni circondano l'inaugurazione, adesso il tempo è tiranno, alcune le daremo più tardi, ve ne diamo una però leggerissima, proprio per sdrammatizzare la situazione. Ci sarà anche un grande show musicale, non dico Woodstock ma quasi, al Lincoln Center la sera dell'inaugurazione. A Washington sul palco passeranno personcine come... State pronti, tanto i biglietti non li trovate, ci piacerebbe avere un biglietto da mettere in palio, ancora non ce l'hanno mandato, vediamo se ci arriverà. Comunque ci saranno, oltre a vari membri della famiglia Martin Luther King, poi ci sarà Queen Latifah, naturalmente Denzel Washington, poi Stevie Wonder, Shakira, John Cooper, Mellencamp, poi Bruce Springsteen, Bono e la bellissima, indimenticabile Beyoncé. Bass. Let's go get him. Come on. I used to run bass like Juan Pierre. Now I run the bass, hi-hat, and the snare. I used to back girls like Birkin bags. Now back B. Boy, you hurting that. Brooklyn Bay, where they birthed me at. Now be everywhere, the nerve of rap. The audacity to have me with them curtains back. Me and B, she about to sting and stand back. Baby, seem like everywhere I go, I see. Bayon si canterà al Lincoln Center di Washington, beh, se non altro potremmo vederla in televisione se non avete i biglietti. Tu hai il biglietto, mi sembra. Come ti vestirai al Lincoln Center di Washington? Guarda, controllerò come ti vesti al Lincoln Center. No, sarà davanti alla televisione, come tutti noi, staremo lì come appiccicati al vetro, no? Come quelli davanti ai grandi ristoranti. Per dire c'eravamo, seppur solo virtualmente. Certo, certo. Vedremo che cosa succederà in questa notte che già si preannuncia come indimenticabile. Hillary ormai ha preso il via, e chi la ferma? A friend told me, the world has so many problems, you've got your work cut out for you. Well, I agree, but I don't get up. Il mondo c'ha un sacco di problemi, auguri. Ma adesso io ne arrivo avanti fino al 20 gennaio a parlare, no? Mi sembra molto agguerrita, molti appunti e molto determinata. Calling forth the optimism and can-do spirit that has marked our progress for more than two centuries. Too often we see the ills that plague us. Le radici americane, lo spirito del can do, lo spirito del poterlo fare, lo spirito dell'ottimismo che ci ha portato avanti per due secoli, però forse, sta aggiungendo Hillary, è il momento di stare veramente in guardia. Noi svoltiamo alla prima a sinistra, lasciamo Hillary parlare e andiamo a caccia di ultime notizie. Prima pagina. Hillary, tra l'altro, direi con una faccia meno tesa di altre volte quando l'abbiamo vista nel piano delle primarie, si è abbastanza rilassata. Sembra molto sicura di sé. Allora, intanto Obama è finito anche sulla prima pagina del China Daily perché ha promesso alla Cina che continuerà a promuovere le relazioni diplomatiche sino-americane. Direi che nessuno pensava il contrario. Ma la cosa curiosa è che praticamente Obama ha dato un messaggio all'ex presidente Jimmy Carter, che si trova a Pechino in occasione della celebrazione di questi 30 anni di relazioni tra Cina e Stati Uniti. Credo che Carter sia il più vecchio presidente, ex presidente ancora vivo, insomma. Se l'ha battuto con Bush, non so come. E a sua volta Jimmy Carter ha dato questo messaggio a Hu Jintao, un po' tipo telefono senza fili, hanno portato il messaggio al premier cinese. Quindi, insomma, volevamo segnalare questa cosa di Obama, che viene tenuto d'occhio anche dalla lontana, ma non troppo, Cina, attraverso il China Daily. Appena detto Hillary, la politica estera deve essere pragmatica, il Dipartimento dovrà funzionare a tutti i cilindri, come si dice, a tutta potenza, insomma, a tutto gas. Io vi do invece una notizia, anche questa di ambito un po' più leggero, anche per vedere un po' qual è il colore, no? Come si dice, attorno a questa elezione. Dunque, il colosso svedese, onnipresente, inevitabile dell'arredamento, abbordabile, ormai si dice così, IKEA sarebbe anche lui vittima della febbre Obama, se è vero che ha lanciato oggi una campagna intitolata Embrace Change 09, abbracciamo il cambiamento 09, in cui onora il presidente eletto degli Stati Uniti, e cerca di vendere anche qualche mobiletto in più. Non a caso è in vendita, e questo lo dico ai molti sostenitori, in alcuni casi fanatici, in alcuni casi appassionati o anche detrattori del presidente in genere della presidenza americana, che è in vendita una replica IKEA dello studio ovale, che io appena ho letto questa notizia che ti monti da solo, sono impazzito. Io voglio il mio studio ovale, poi mi ci siedo dentro e governo il mondo finché non arrivano quei signori vestiti tutti di bianco, quelli con la camicia, con le cinture, insomma. Allora, c'è una replica, è stata presentata alla Union Station, e alcuni pezzi di questi mobili IKEA saranno, spero, acquistabili per noi sostenitori. Tra le iniziative c'è anche un sito che si chiama www.embracechange09.com. insomma, i fan del marchio svedese hanno di che sbizzarrirsi così a stelle strisce. Poi magari scopriremo che IKEA ha allestito il palco del 20 gennaio a Washington, chi lo sa. Rapidamente vi voglio invece segnalare una simpatica iniziativa che viene dalla Cina, e tra l'altro devo ringraziare apertamente, approfitto della radio, Gianluigi Negro, perché senza di lui non avremmo avuto la traduzione in inglese per capire di cosa sto per parlare, perché la popolare comunità online cinese Tiania ha realizzato delle carte da gioco che raffigurano gli episodi più significativi nel bene e nel male per la Cina nel 2008, in occasione del capodanno cinese ormai imminente, il 26 di gennaio. Per esempio, il Jolly Rosso, secondo te, Stefano, a chi può essere andato? L'evento dell'anno in Cina, naturalmente. Le intanto a Pechino. Esatto, mentre il Jolly Nero, che evidentemente il nero certo, raffigura gli avvenimenti negativi, c'è il terremoto terribile nel Sichuan. Poi tra gli appuntamenti, per esempio, c'è il K di cuori, che raffigura le donazioni per il terremoto, si è arrivati a 6 miliardi di euro raccolti, c'è una bellissima foto di un bambino che mette la sua donazione in un cubo. Poi per esempio si ricordano le ripristinate relazioni relazioni tra Taiwan e la Cina. Ce n'è anche per Sarkozy, che forse è il personaggio europeo più odiato dai cinesi in questo momento. C'è una foto che io, Stefano, non riesco bene a comprendere, il 10 di quadri, in cui si dice Sarkozy ha avuto quello che si merita. C'è una specie di fotomontaggio con un uomo che si mette le mani laddove non batte il sole, poi c'è la faccia di Sarkozy dentro i pantaloni. Sì. E poi ce n'è anche una che ricorda il boicottaggio del Carrefour, della catena francese, sempre per questa polemica neanche troppo latente tra Cina e Francia, il 5 di fiori, quindi ce n'è per tutti i gusti. Presto credo che sul sito di Radio 24 troverete il link per sfogliare queste carte, dal Jack, Pic, insomma, fiori, quali, tutte le carte francesi sono state messe dentro con un'infinità di avvenimenti. Dico una cosa soltanto, a 45 arriva Paolo sul sito Facebook, redazione Jefferson Ming o Jefferson Ming Radio 24, tutti i particolari in cronaca. Passaggio di consegne. Which just had its second peaceful change of power in a democratic election. We must work hard with our African friends to reach the Millennium Development Goals in health, education and economic opportunity. Many significant problems we face. Caro Andrea Mancia, vice direttore di Libera, amico di Jefferson e nostro ospite in questa sezione del programma, in qualità di buon pomeriggio, in qualità di mio compagno nella speciale commissione di Jefferson per il giudizio della preparazione dell'allieva Hillary Clinton, io ti vorrei dire che mi sembra molto preparata, ha studiato. Beh, lei è una classica secchiona, direbbero. Cioè, praticamente nazione per nazione ci sta dando lo stato delle cose, non scherza per niente. Se c'è qualcosa che non le si può rimproverare è sicuramente la capacità di prepararsi sugli argomenti più disparati, insomma. Senti, la sensazione è che questa molto annunciata, molto temuta, anche così se ne parlava con toni in certi casi un po' da cono d'ombra, no? Chissà se passerà l'esame, insomma, per quello che abbiamo visto finora ci sembra più, come dicevamo prima, un minuetto, insomma, c'è in realtà forse molta voglia di cominciare a girare pagina e cominciare, piantare la grana oggi non sarebbe anche per gli avversari politici di Hillary forse la mossa migliore, no? Che dici? Beh, no, sicuramente lei è troppo scaltra politicamente per poter cadere in una trappola così ingenua. Lei ha voglia di iniziare, la preparazione c'è, restano forse appunto dubbi sulla sua compatibilità con il suo capufficio, chiamiamolo così, certo. Però non c'è dubbio che la partenza procederà spedita, almeno credo più spedita di quanto non abbia dato a intendere Obama per esempio rispetto a Guantanamo, perché certo. sinceramente ancora non ho capito bene. Bravo, sei andato sugli argomenti che vogliamo parlare. Tra l'altro ti estendo l'invito, magari nei prossimi giorni, poi ci metteremo d'accordo a partecipare a una trasmissione, non dico speciale, ma insomma a un approfondimento sull'argomento Guantanamo. A questo riguardo abbiamo dato in apertura la notizia, il succedersi di queste notizie, che insomma non avrà ancora messo il sedere sulla sedia, che avrà già la penna in mano, pare, Obama, per firmare la chiusura, con articoli del New York Times e di Los Angeles Times che gli dicono: guarda Barack, attento, perché minimo un annetto ce lo metti tutto, un annetto, appunto, solo per metterli da qualche parte questi signori, no? Anche perché si tratta, diciamo, di prigionieri piuttosto sensibili, nel senso molti sono stati catturati proprio sul campo di battaglia. Non si possono mettere, diciamo, in un qualsiasi carcere massima sicurezza dell'Arizona senza dover procedere caso per caso a un'analisi legale molto approfondita della loro posizione. Poi c'è anche questa strada di soluzione, diciamo tra virgolette, internazionale, no? Alcuni paesi, insomma il Portogallo, qualche altro paese avrebbe praticato un'apertura dicendo: ma forse qualcuno ce lo pigliamo, ci sarebbe una specie di distribuzione, anche una un procedimento anche vagamente patetico, se posso osservarlo. Sì, io sono abbastanza d'accordo, anche perché non so quanta voglia abbiano, diciamo, dalle parti dell'intelligence statunitense di regalare i prigionieri che loro considerano di guerra, torto a ragione, a paesi terzi. Insomma, per gestire la loro prigionia gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare critiche internazionali, la grossa pressione dell'opinione pubblica mondiale, per poi fare cosa? Per darli al Portogallo? Insomma, mi sembra una soluzione, soluzione quantomeno bizzarra. Io credo che questa sia una storia che si trascinerà ancora abbastanza a lungo. Il New York Times parla di almeno un anno. Questo appunto tenendo conto che la risoluzione con cui si ordina la chiusura di Guantanamo dovrebbe essere il primo atto ufficiale dell'amministrazione Obama. Insomma, forse potrebbero cercare di fare più in fretta, magari, e farlo come terzo o quarto atto e occuparsi di altri problemi. L'ultimo argomento che voglio sottoporti, che mi ha abbastanza colpito, viene da ieri, dalla famosa ultima conferenza stampa di George W. Bush davanti ai reporter abitué della Casa Bianca, allorché in una sua dichiarazione è andato, una delle non molte volte in cui è andato, completamente in controtendenza con quanto ha detto Barack Obama, che per esempio a margine della questione Guantanamo ha espresso il rincrescimento, il dolore per la pratica delle torture, e ha fatto grandi assicurazioni a questo riguardo. Io ti vorrei far sentire una breve battuta pronunciata invece dal presidente uscente Bush. The techniques were necessary and are necessary to be used on a rare occasion to get information necessary to protect the American people. One such person who gave us information was Khalik Sheikh Mohammed. He was the mastermind of the September the 11th, 2001 attacks that killed nearly 3,000 people on our soil. In sostanza, George Bush non fa marcia indietro, almeno non la fa completamente, anzi la fa solo parzialmente riguardo alla questione dell'utilizzo di tecniche di tortura per ottenere informazioni da personaggi particolarmente importanti in questo senso, e evoca per l'appunto chi ha giocato un ruolo chiave in occasione dell'attentato del 2001, se c'è in ballo, in sostanza, se c'è in ballo la sicurezza nazionale, cari signori, io non posso dichiararmi pentito. Ecco, come commenti questa dichiarazione a fronte invece degli intendimenti, per ora teorici naturalmente, espressi da Obama? Beh, questo è non da oggi un dibattito, oserei dire quasi filosofico, di impossibile risoluzione. Se si ritiene che anche ledendo le libertà riconosciute dalla Convenzione di Ginevra qualsiasi cittadino del mondo si possa, tramite anche la tortura o tecniche, diciamo, come il waterboarding, che qualcuno considera tortura e qualcuno considera invece magari diversamente, salvare vite umane e ottenere informazioni in grado di poter salvare vite umane, niente, ognuno almeno le persone che conosco io rimangono sulle proprie posizioni. C'è chi la ritiene una pratica giustificata in casi estremi, e il presidente Bush è uno di questi, e c'è chi la ritiene una pratica mai giustificata nei confronti. Ed è piuttosto interessante, al di là del giudizio, che in questo caso può non essere necessario, il fatto che a chiusura dei lavori Bush su questo, come dire, metta comunque un punto, poi ciascuno darà il suo giudizio, ma in un certo senso, per quanto lo si possa criticare, lui imbocca una via di coerenza, non fa la capriola dell'ultimo momento. Beh, diciamo che ecco, si può avere il giudizio che si vuole sulla doppia amministrazione Bush, ma il fatto che abbia comunque lui, soprattutto su alcuni argomenti come questo, seguito sempre la stessa linea con coerenza, appunto dicevi, è una cosa che gli riconoscono anche gli osservatori a cui Bush sta meno simpatico. Vedremo se Obama riuscirà a essere altrettanto coerente, sempre che la coerenza sia di per sé un valore e non un disvalore. Grazie Andrea, ci risentiamo nei prossimi giorni, prima di tutto perché si avvicina questa inaugurazione e insieme la valuteremo nei suoi molti risvolti, nei suoi molti aspetti, poi anche appunto per fare insieme il punto sul carcere speciale. A risentirci. E vi ricordo che di tutto questo appunto trovate ampia traccia, anche ampio aggancio e ampia pagina bianca, bacheca, chiamatela come volete, ma potete intervenire su questi argomenti, anzi noi desideriamo che voi interveniate, perché questo è un po' il trend nuovo 2009 che ci piacerebbe dare al programma, alla trasmissione, sia allargare il punto di vista al di là del bipolarismo Stati Uniti-Cina, su cui siamo partiti, abbiamo lavorato per 2 anni, gli Stati Uniti restano il centro principale di interesse e di osservazione del nostro programma, ma tutto ciò che accade, si connette in giro per il mondo è di altrettanto interesse per noi, a partire naturalmente dalle aree di crisi, ma poi proseguendo con i nuovi protagonisti, le realtà emergenti, le nuove dinamiche tra nazioni, naturalmente la nuova geografia politica del mondo all'altezza dell'anno 2009. Tutto questo ci occuperemo e abbiamo scelto proprio un paio di siti di Facebook che poi man mano si svilupperanno fino a creare una vera e propria rete per utilizzare anche l'interattività con chi ci ascolta su questi due argomenti. Quindi redazione Jefferson Ming e Jefferson Ming Radio 24, per ora sono questi, poi come vedrete le cose cambieranno anche i nomi, cari ascoltatori dei programmi in questione, ma abbiate pazienza, intanto pregustate fra circa 3 minuti l'arrivo di un eroe, forse dell'eroe assoluto di Jefferson Ming, Paolo italiano in Cina. Potete naturalmente fare i vostri commenti come al solito sul SMS 349-238-6666 o su internet, dove vi ho appena detto. You're now tuned into the soulful sounds of Hove. Oh girl, oh girl, you're so thorough, I want you in my world. You know I'm liable to spiral, no telling what I would do when left alone with my maniacal mind. My Bible, you chauffeur, over to the place that I've arrived to. You know I used to ask of you, kitty they go like a trifle. Until that day you say, close your eyes, let me ride you. Drove me insane with your ride to. Nice move, maestro. You can cue the wedding march. I'm done, I try to run, but Cupid hit me dead and hard. How ironic, arrows hit me. You know I'm a sad. Hurt me so good that you love me so bad. Oh girl, you know you saved me from myself. You knew so chiediamo scusa all'amico Ivan Cattaneo, insomma, che canticchiava e canticchia questo inno a Shanghai molto anni 80, che ci sembra proprio, come dire, fatto a, no, a fagiolo, proprio ad hoc per accogliere. È la prima volta nel 2009? È la prima volta nel 2009, ma in fondo è passato solo allora, un mese allora, dall'ultimo contatto. Sappiamo che siete frementi, magari di rabbia, schiumanti di rabbia. Ma neanche tanto. No, ormai è entrato, come dire, nell'ordine delle cose. Lo avete accettato, il personaggio, l'italiano che abbiamo scelto come pesce pilota nel nostro lungo biennale avvicinamento alla Cina. Si chiama Paolo, è un uomo forse anche con qualche difetto, ma con molti pregi, un uomo, un mito, soprattutto la tenacia. Vuoi fare una brevissima scheda di presentazione? Beh, il nostro Paolo, 35 anni, da un anno ormai vive stabilmente nel periglioso mare di Shanghai, dove è andato a seguire il suo grande amore, una ragazza di 24 anni che gli ha fatto letteralmente perdere la testa. Però nonostante le difficoltà di aver lasciato la famiglia, di aver lasciato il lavoro sicuro in Veneto, Paolo tenacemente sta resistendo, sta anche finalmente ottenendo dei risultati sul piano lavorativo. Questo amore fugge e torna, insomma, va e viene, è un po' tormentato, però credo che anche da questo punto di vista stia ricevendo finalmente delle soddisfazioni. Bene, allora pochi minuti fa abbiamo raggiunto Paolo telefonicamente, gli abbiamo chiesto gli ultimi aggiornamenti per tutti coloro che vogliono essere messi al corrente come vanno le cose. Poi vi leggeremo anche alcuni commenti su Paolo che sono arrivati, ma prima di tutto diamogli voce. Natale l'ho passato con la ragazza, ovviamente, tranquillamente. Lei ha lavorato, però comunque sono riuscito a fare in modo che rientrasse a casa prima del solito alla sera, verso mezzanotte circa, in maniera tale da poterci collegare via Skype e quindi metterci in contatto con tutta la famiglia. Sono contento per questo, perché è stata finalmente l'occasione, dopo praticamente un anno che sono qua, per mostrare, tra virgolette, in diretta e dal vivo, anche se ovviamente non eravamo lì, la ragazza, un po' tutta la famiglia che era riunita come tradizione vuole a casa mia. Paolo, quindi è stata la prima volta che i tuoi familiari da Venezia, dal Veneto, hanno visto la tua fidanzata? Loro un anno fa l'avevano già vista, però in DVD. Avevo il mese che ho fatto nel 2007, prima di Natale, avevo fatto un breve filmato con la videocamera, e quindi poi quando ero rientrato a casa per fare armi e bagagli avevo mostrato a loro la ragazza, quindi loro la faccia sapevano già com'era, però non avevano mai avuto modo di vederci assieme, di interagire, ecco, con lei. Quindi questa qui, quindi per la prima volta almeno si sono salutati, insomma. In che lingua si sono parlati? Un ciao in italiano, è riuscito a dirlo? No, beh, ovviamente i miei, anche fratello, sorella, non parlano granché inglese, tantomeno ovviamente cinese. Ho fatto un po' io da interprete. È diventato un interprete, Paolo. Ormai eroe dei due mondi. Un uomo che si evolve continuamente. Leggo qualcosa. Paola Francesca scrive: per favore chiedete a Paolo se ha fatto un voto per estinguere il suo karma negativo. Marilena si chiede: ma come, vuoi passare il Capodanno da solo? Ma tra questo ci arriveremo tra poco. Tra poco, sì, c'è riferimento al Capodanno che lo vedrà lontano dalla sua fidanzata. Poi c'è chi ci chiede a che bestia è dedicato il nuovo anno cinese. Il bue, l'abbiamo detto l'altro giorno con Giuliano Noce. Va bene, va bene. Torniamo alle vicissitudini, le ultime vicissitudini di Paolo, soprattutto il fatto che mancano esattamente due settimane al Capodanno cinese, il 26 gennaio, quindi grandi festeggiamenti in vista. Festeggiamenti più massicci fino a un certo punto, perché la ragazza giusto ieri è riuscita, perché non è cosa facile qui riuscire a prendere i biglietti del treno. E giusto ieri ha preso il biglietto del treno per il giorno 20, del giorno 21 gennaio alle 2 di notte, ritorna per una settimana, 8-9 giorni a casa dai suoi. Quindi insomma, ovviamente passerò il Capodanno qui in solitaria, ecco, perché per il sottoscritto ancora quella la famiglia, quella zona lì è ancora area off limit. Quindi... Ma ti sei organizzato un programma alternativo? No, ancora no. Non so se con qualche espatriato italiano qua adesso vedrò se magari si incontra per fare qualcosa, ma al momento ancora non ho ancora pensato a nulla. Senti Paolo, venendo invece al discorso lavorativo, noi ti abbiamo lasciato prima della fine dell'anno che ti stavi organizzando, direi in maniera molto produttiva, tra lezioni di tennis a Belle Signore di Shanghai e lezioni di italiano, soprattutto, che mi sembrava l'attività più importante di questo periodo. Su questo fronte come stanno procedendo le cose? Beh, non sta andando male, cioè nel senso che adesso... in pratica ho cinque persone, ho quattro ragazze per lezioni di italiano e un ragazzo per lezioni di tennis. Questi sono, penso di poter dire, abbastanza fissi come appuntamenti settimanali. Paolo, mancavi come il pane, scrive Chris da Parma. Paolo ci dà da fare, riesce a dare tra tennis. Ti rendi conto, io vorrei fare una puntata speciale solo sull'utilizzo del termine espatriato. Espatriato, solo Paolo lo usa, ma sembra un po' d'antano. E Capodanno in solitaria anche, non mi dispiace. Comunque il tempo è molto molto tiranno, dobbiamo andare avanti. Sentiamo l'ultimo intervento di Paolo, soprattutto su questi nuovi risvolti, come dire, finanziari. Fa un po' di conti. Pecuniari. Di tennis per ora una alla settimana. Il mercoledì, quindi domani, con questo ragazzo. Le altre in totale sono più o meno 8-10 ore a settimana di lezioni. Beh, quindi con l'italiano insomma le cose stanno andando piuttosto bene. Paolo, non so se vuoi rispondere, ma giusto per capire come funziona il mercato del lavoro in Cina e a Shanghai, quanto costa una lezione di tennis e una di italiano con te? Mediamente, da quello che vedo in giro, anche su internet, lezioni private di lingua, che sia italiano, inglese o qualsiasi altra lingua, almeno 100 RMB, 100 anche di più, che sono 10 e passa euro, insomma, almeno. Io invece chiedo la metà, quindi 50, e per il tennis si va anche più in alto. Infatti questo ragazzo qui a cui sto insegnando mi ha detto che sono molto cheap in inglese, perché normalmente lezioni di tennis chiedono almeno 150 o anche 200 RMB all'ora, mentre io anche qui ne chiedo 50 all'ora. Ci sono colloqui in vista invece su lavori più impegnativi, più corposi? Ma qualche giorno fa ho ricevuto un'email da una signorina che ha visto su internet uno dei miei annunci delle lezioni di italiano, e questa qui praticamente fa parte di un training center qui a Shanghai, un centro di formazione, e mi ha chiesto se volevo, loro stanno reclutando tra virgolette insegnanti di lingua per i loro clienti, mi ha chiesto se mi interessava essere tra virgolette una specie di part time teacher part time, dare lezioni di italiano part time per i clienti. Io ovviamente ho risposto di sì, mi hanno mandato via email l'altro ieri un form da compilare, l'ho spedito la scorsa notte e adesso sto aspettando che mi fissi un appuntamento. Anche poliglotta, non so se avete notato ormai l'uso disinvolto della lingua di Paolo, nostro eroe. Mandateci messaggi, glieli gireremo se volete parlare, confrontarvi con lui. Poi un giorno finalmente faremo la diretta. Paolo ce la farà, no? Prima o poi scenderà in Italia e parleremo con lui dal vivo. Solo al volo una risposta a un ascoltatore appassionato di NBA, e noi diamo sempre ascolto agli appassionati di NBA, che ci chiedono notizie di Danilo Gallinari, quando finalmente segnerà il suo primo canestro, perché mica ancora l'ha segnato, ha fatto solo 2 tiri liberi. È una domanda difficile questa. Pare ai primi di febbraio dovrebbe essere in campo, questo dicono gli informatissimi. Jefferson Ming di oggi, Stefano Pistolini, Emiliano Enrico in redazione, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Pietro Lacorte a Milano, l'indirizzo mail è jeffersonming@radio24.it, i siti Facebook ve ne abbiamo ampiamente parlato, si chiamano Redazione Jefferson Ming La Bacheca e Jefferson Ming Radio 24, no il contrario, Jefferson Ming Radio 24 La Bacheca e Redazione Jefferson Ming per parlare con noi. Andiamo in replica alle 9, in diretta domani alle 4 qui su Radio 24. Yeah.